La lava in fiamme scende la collina, mi lavo i piedi e domenica mattina. Il sole picchia in testa come un assassino, la piazza è in festa, la festa del patrono. Il mare scuote il letto e un collare intorno al collo, satelliti nell'aria, caduti tutti intorno. E tra un rosario e un lutto cittadino, mi siedo e aspetto di parlare con qualcuno. Sono siciliano, mezzo africano, un po' norvegese, un po' americano. La prua della barca taglia in due il mare, ma il mare si riunisce e rimane sempre uguale. E tra un greco, un normanno, un bizantino, io sono rimasto comunque siciliano. Carmelo è biondo e ha in bocca un orecchino, si sente già europeo, europeo, palermitano. E tra le case è ancora da finire, noi continuiamo, continuiamo a far l'amore. Sono siciliano, un po' saraceno, catanese. Guardo fuori l'oblò, c'è una luna d'argento, l'aeroplano si scuote nel vento. Io lo so che tra un po' atterrerò e qualcuno mi attende e mi sorriderà appena mi vede. Che aveva tra i capelli adesso luci dalle stelle, negli occhi ha un sogno metropolitano, è un vulcano piano piano che si accende. Sono siciliano, nordafricano.